visto per la strada sporca di coriandoli, un ragazzino in maschera dal portamento serio, e sopra una panchina confuso fra la folla un vecchio che pareva scolpito nella pietra. Passava un carro bianco vicino a casa mia, e nel silenzio grede un lungo scalpiccio. Da lunghe ciminiere si alzava un fumo nero, un cane si aggirava in cerca di un padrone. Incontrarti prima che il sole muoia, su un altro giorno ancora, su un altro giorno ancora.